Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Bella questa suspense. Sì. Ti piace? C'è un'attesa, si attende. Perché mi sei impallato al computer? Posso iniziare la trasmissione col computer impallato? Non posso dare l'indirizzo del nuovo profilo Facebook Melog-Radio24, dove saranno raccontate ogni arcano mirabilia della nostra trasmissione, come ad esempio la testimonianza visiva che abbiamo lasciato poco fa, in cui abbiamo raccontato le nostre vacanze. Sì, perché siamo in periodo di vacanza, nonostante le crisi, nonostante le angustie, nonostante gli spread in risalita, dovremo affrontare il problema delle vacanze, ma non perché sia fondamentale, indispensabile, perché lo abbiamo nel DNA, perché ci sono delle mutazioni tali per cui occorre andare in vacanza. Perché? Perché da più di 50 anni siamo abituati che in Italia si va prima in villeggiatura, come è accaduto fino a verso gli anni 70, poi anni di piombo, improvvisamente non si parlava, c'era soltanto la militanza totale e l'austerità dall'altra parte, poi si è cominciato a parlare di vacanze. E io finalmente ho acquisito una dimensione che mi mancava, che è la dimensione delle coccole. Ho imparato che in questo periodo occorre farsi delle coccole, quindi io con la mia compagna andrò in Patagonia, dove abbiamo bisogno di rigenerarsi perché abbiamo lavorato tantissimo. Noi tutto l'inverno abbiamo scritto una sceneggiatura su una storia molto concreta, parla di una di quelle famiglie terribili con il SUV, con i telefonini, quei bottegai pieni di soldi che hanno dei cani e li abbandonano sull'autostrada. Poi abbiamo degli amici dell'ex compagno della mia compagna che hanno delle conoscenze in Rai, lo presentano e forse ci facciamo una fiction. Ma sai, abbiamo scritto, è stata una cosa a quattro mani, tutta l'estate abbiamo bisogno di farci le coccole, mangiamo vegano, andiamo lì e rianimiamo i nostri chakra. Tu cosa fai? No, io ho prenotato con la famiglia a Milano Marittima, abbiamo un ombrellone, una cabina, saremo tutto agosto lì. A me piace molto la contiguità degli ombrelloni con i vicini, stare molto tutti assembrati in un metro quadro. Mi piace questa possibilità di leggere i corpi sudati, sì, c'è qualcosa di molto, molto primordiale. E poi entrare in quell'acqua marrone e sentire subito l'odore di abbronzante che ti olea il polpaccio, mi piace moltissimo. Sono anche con i batteri che danno questa colorazione, sì, marroncina. Con l'ebbrezza. E poi la possibilità di essere animato, rianimato continuamente, magari fare balli di gruppo sulla spiaggia. Beh, spero ci siano gli animatori. Per forza bisogna il gioco aperitivo bisogna farlo. Bisogna farlo, io non transigo su questo. Poi mi piace molto l'idea di poter fare il torneo di calcio balilla. Chissà perché quando faccio Real Calcic mi viene questa cadenza finocchiesca. Un istinto. 800 24 0024. Oggi parliamo delle vacanze. Abbiamo una storia patria da sviscerare attraverso quello che fu il cinema, la commedia italiana, di come gli italiani si accorsero a un certo punto, passata la guerra, passata la mestizia, passata la fame, nel momento del boom, che avevano delle coste lungo tutto il loro paese, fatte di sabbia, fatte di posti da cementificare, da colonizzare. E felici gli italiani scoprirono la villeggiatura. Ah sì, la siamo proprio da parte, va. Beh, se capisce, già che siamo arrivati fino a qui, buttiamoci. Non l'ho manco provato, fatta il bagnetto. Capito. Mamma mia. Acqua sporca. Aga tu. Dicono che fa tanto bene il sale del mare, ma a me non mi piace. Ma che bene, questa roba dei ragazzini. Andate, se ne va. Ma sì, andate. Dove andate? Andiamo a pigliare una Coca-Cola. A provare una Coca-Cola? Insomma, qualche cosa di fresco, magari mezzo litro. Maurizio, che qua non andate tanto in fuori, capito? Da me la mano, vengo pure io. Ma se portiamo pure sto credenzione. Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, dai perché... Questo ambiente è così cheap, ancora... si può avvertire ad alcune nostre latitudini, vero Sanson? Sì, questa è Domenica d'Agosto di Luciano Emmer del 1950, che trasloca il neorealismo nel neorealismo rosa, nell'inizio, nei primi vagiti di un certo tipo di commedia più leggera, e racconta la giornata, l'assalto al mare di Ostia sui tramvetti partendo dalla Villa Gordiani alle 5 di mattina, oppure con le macchine, le prime macchine stipate di parenti con le paste al forno, si approda tutti sotto la piramide Cestia, si prende il trenino per Ostia Lido, oppure appunto con le vetture si va sulla via del mare e si arriva a colonizzare la spiaggia un po' diffidente dipendenti, come abbiamo sentito, i due che in realtà traslocano invece verso la più vicino chioschetto per ai tempi non nuotavano gli italiani, nessun italiano sapeva nuotare, nuotavano alla contadina tutti su un fianco con un braccio solo e con la testa mezza fuori, quello era il massimo che potevano fare. Mio nonno infilava lo stinco e guardava con diffidenza la forza del mare. Sì, le donne tirano sulla gonna e si infilavano fino alle ginocchia per dare sollievo alle vene varicose, ma era il massimo che si facesse. Che ricordo avete, che memoria avete di queste scellerate nostre anticipazioni di villeggiatura? Tra infilare le caviglie sanguinolente e varicose nella battigia e andare sulle orme di Chato in Patagonia con la propria compagna a farsi coccole, sono passati decenni. Come avete riempito voi questi decenni emotivamente? 80024 0024. Vieni su, sì, e ce l'hai. E queste sono le scarpe di gomma, che stingono. Pure i due. Eh sì, sono le scarpe che stingono. Il sudore, non se stiamo mai fermi. Ma che ti rimetti i pedalini? Io mi vergogno. Ma che ti fa il bagno con i pedalini? E io dico che mi sono scordato. E io? Lo sai che famo? Che? Sanna Mattuffa subito dentro al mare, aspetta. Guarda, Guarda come... Guarda, mo io apro la porta, Tu me venghi da dietro e me dai uno schiaffo qui, ma forte però, me lo devi da forte, ecco forte. Allora io mi incazzo, mi arrabbio, ti comincio a strillare, te vengo dietro come per il ratto, cominciamo a correre, boom, e se buttiamo dentro al mare le cose. Ecco, così se lavami i piedi insieme ancora. Esatto. Non c'entra allora, Dai, sì. Magari lo schiaffo te lo do io, però. No, lo schiaffo te lo do io. No, vabbè, muoviti, dai. Mica se sono mosse, stanno ancora lì. Ci vorranno fare un applauso. Pronti, Apri. Bambine, ci avete aspettato, Siete proprio fedeli, fedeli e dolci. Marco, riesci? Tacci! Io? Sono problemi, perché se si arriva dalla città con i calzini che stingono, con le scarpe di basso conio, i piedi rimangono nerastri, se dal casotto si vuol fare colpo alle due ragazze bisogna trovare questo espediente di correre in acqua e lavarsi i piedi. Vedo che c'è un pubblico molto reattivo, mi scrivono su Facebook: sei vegano Nicoletti, mi fa piacere, vieni a visitare il mio face, io mi chiamo Sugar Free, andrò, cosa vuol dire non lo so. Questo era il casotto invece di Sergio Citti, in cui lui, il regista, smargina l'inquadratura di Domenica d'Agosto, che era appunto un film di trama. Lui guarda questi personaggi che sullo sfondo entrano ed escono dalle cabine e cerca di capire cosa accadeva in questi casotti, ovvero toglie trama al suo film e li guarda perdere tempo, li osserva nei margini dell'inquadratura. E qui vediamo appunto Franco Citti, suo fratello, e Gigi Proietti, che appunto venendo dalla città hanno i piedi sporchi, se ne vergognano e provano a trovare un escamotage per non perdere l'affetto, insomma l'attenzione erotica di queste due sciampiste che hanno rimorchiato in città. Io di recente per lavoro ho visto Franco Citti, che vive a Fiumicino e che ha ancora un viso da magnifico Edipo, e che guarda gli aerei che vanno verso la Thailandia immaginando di tornarci presto, perché gli piace stare in Thailandia. Questo è nel casotto si consumava tutta la fase intermedia fra gli abiti da città e il vestito da mare. Era una sorta di spogliatoio comune, una specie di garage per la manutenzione dei corpi, in cui tenevano anche l'angura in fresco, in cui le masserizie e le vettovaglie venivano portate da casa e erano lì. No, quello che dovrei capire, ma non mi ricordo, non ho memoria di questo, perché si andasse in questi luoghi terribili a fare questi tour de force che in realtà danno pochissimo piacere, ci si insabbiava, ci si scottava, se ne usciva sporchi, soltanto per un giorno, andare e tornare, perché c'era un condizionamento, secondo me, psicologico, che occorresse andare in villeggiatura, quando in realtà si stava molto meglio in città, se quello poteva essere l'alternativa. Certo, chi poi va in Patagonia è un altro discorso. 80024 0024, possibile che non abbiate una memoria di queste scellerate vacanze una volta, e soprattutto oggi non vi viene in mente che forse potreste ritornare, data la congiuntura, a quei tempi? Giovanna, buongiorno. Buongiorno, allora io sto chiamando da Lecce. Lei già sta nel vicino al mitico Salento, quindi meta radical chic per decenni. Chiunque affittava una masseria, dove vai? Vado nella masseria in Salento a ballare la taranta. sarebbe. Eh sì, io vado a Melpignano. Sì, ma lei è di quelle parti, a Melpignano, anch'io ci sono stato la notte di agosto. È fantastico, ma vedere le signore milanesi che si agitano frenetiche con questi signori con la scusa della danza delle spade, ben altra spada loro somministrano, devo dire che è molto divertente. È bello, è bellissimo, e a me piace molto, da morire moltissimo proprio quella musica, quelle, insomma, la tarantra, ecco, quella pizzica. Allora io dovrei raccontare, non so, una mia esperienza del mare? Sì, se vuole, o anche l'esperienza della pizzica, sì. Decida lei. Tanti anni fa io eravamo a casa mia, siamo sei figli, e siccome non avevamo la macchina, mio padre ci prese, affittò un taxi e ci portò al mare, che è visto da casa nostra una ventina di chilometri appena. Che mare era? Ionio, Porto Cesareo. Ah, Porto Cesareo, certo. Quei posti lì molto belli, molto soleggiati, però siccome per me era la prima esperienza, andammo lì con l'ombrellone, l'autista nel frattempo trovò da fare un altro viaggio a Bari e ci lasciò fino alle 2, sicché io, avendo la canagione bianca, mi scottai. Ho preso una scottatura e... Se era tipico, i bambini ritornavano a casa ustionati, perché non esistevano le cremine, gli mettevano la chiara d'uovo, queste no, scellerate cose casalinghe. Uscivano le bolle sulla pelle, poi sì. Mi veniva mal di testa, febbre a 40, ho passato le pene dell'inferno. Sicché quella è stata la prima esperienza per quanto riguarda il mare. Poi sentivo, non so chi di voi diceva che è bello ballare, io ho provato a ballare sulla spiaggia di sera. Però è da allora, io ogni volta che sono andata al mare mi sono sempre scottata. Ora che sono arrivata alle altre. Ma con il di sera con il falò e la chitarra? Sono andata, certo. Qualche volta. Si cantano le canzoni di Battisti, magari. Battisti, si ballava, si mangiava, si fa l'arrosto purtroppo sulla spiaggia, c'è cioè il barbecue. È bellissimo e stupendo, però io il mio rapporto col sole è stato sempre un incubo. Sì, diciamo era tipo, non eravamo ancora pronti nei primi anni del nostro affacciarci alla villeggiatura. Io pure ho memoria di fratelli piccoli, cugini che abbandonai al sole, la sera li portai a casa, sembravano aragoste, si arrabbiarono molto i miei genitori, erano tutti con la febbre ustionati, capitava questo. Augusto. Buongiorno Nicoletti. Voglio fare la mia testimonianza. Appena la guerra, non c'erano i mezzi giustamente, e si andava col 626, col camion, mettevano i banchetti, del resto come all'anno quando non c'erano, il primo maggio che non c'erano i mezzi a Roma, si andava giù a Roma con le camionette, e allora si chiedeva l'autorizzazione alla prefettura di Viterbo. E noi per strada poi si faceva colazione, si faceva la panzanella, diciamo, la paesana, portavamo i contenitori di legno, i cosiddetti barlozzi, bariletti, caratelli, e si beveva a garganella il vino, dopo fatta sta bella panzanellata, perché su strada c'era una bella fonte naturale, lì si mollavamo il pane col pomodoretto, un po' di sale, l'olio non ci si metteva, bastava solo il sale. Bruschetta senza olio al massimo. La bruschetta senza olio, diciamo. No, la panzanella. Ah, panzanella. Cioè, camion. Acqua e pane con un po' di pomodoro. Sì, col pomodoro, e poi si beveva il vino, diciamo. Quindi arrivavate che eravate già sull'orlo della congestione quando eravate al mare. Ma no, perché poi tutti i contadini eravamo abituati a star male, al sole, capito? E che facevate una volta arrivati? E una volta arrivati si faceva il bagno, si mettevano i picchettoni e col tendone del cagno tutti sotto, nati in dopoli. E i costumi da bagno di che foggia erano? Come erano? Erano i costumi dell'Anna, che quando arrivavi dentro te si calavano tutti. E quelli che uscivano da sotto le palle, praticamente, per dirlo in maniera poetica. Sì, sì. Quando si allungava, sì, c'era sempre il ciondolo. E le donne uscivano al seno, giustamente. Era diciamo una promiscuità anticipatoria ai costumi scellerati di oggi. Noi in Patagonia non abbiamo questi problemi, naturalmente andiamo in delle spiagge nudiste perché ci siamo liberati da questo tabù del vestito, ci piace. No, mi faceva piacere di intervenire, capito, come era prima. Ha dato testimonianze importantissime, soprattutto ha rivocato oggetti tipo il caratello, di cui la gente ha dimenticato l'esistenza. Sì, grazie Augusto, grazie mille Augusto. Del sud lei, vero? Oriundo, a dire meglio. Insegna latino qui nel locale liceo, da 10 anni. Beato lei che non deve fare 5 ore d'auto per mettere i piedi nell'acqua, eh? Ah, beato secondo lei? Due mesi di paradiso e 10 d'inferno. Guardi questa nordica longilinea. Di qua, ingegnere, guardi. Queste due farfallette, l'ulitelle appena sbocciate, ma come si fa? Terribili provocazioni, ingegnere. Poi arriva l'autunno e torno nella squallida solitudine delle aule. 35 giovanotti con le gambe pelose. Andi, scusi, ingegnere, con permesso. Prego, prego. Lotte! Lotte! Raul e Lotte! Allora Giuseppe, noi stiamo collazionando, confrontando la viva testimonianza dei nostri ascoltatori con la lettura che il cinema e la commedia faceva di quei tempi. Come vedi, collimano perfettamente il racconto del signore nell'immediato dopoguerra, con il camion affittato, con i banchetti, con il vino e col pane e acqua, veramente pane, acqua e vino. Andavano felici e si mettevano il costume di lana a scellare, lo stesso che mettono nei film La famiglia passaguai, quello che vediamo a Delle Piane Bambino, quei costumoni terribili di lana fatti a volte anche all'uncinetto. Esatto, il contesto che rievocava Domenica d'Agosto, invece qui quello che abbiamo ascoltato è L'ombrellone di Dino Risi del 65, in cui un Enrico Maria Salerno, ingegnere che sembra quei detective della Settimana Enigmistica con la pipa e il cappelletto, gli occhiali spessi, piomba nel lager di Riccione, nel coloratissimo e variopinto lager da deportazione di massa riccioniano, e con Leopoldo Trieste infilando appunto i polpacci in acqua osserva le belle vichinghe, le amazzoni che vengono dal nord Europa e arrivano pronte esposte all'assalto dei pappagalli locali. Insomma, è la descrizione di quella che diventava la vacanza di massa, con animazione continua, con una frenesia condominiale anche, appunto da catena di montaggio del divertimento che cominciava a materializzarsi. L'occhio lucido di Risi la indaga e la presenta e la mostra in tutta la sua estenuante e variopinta virulenza. Giuseppe, buongiorno. Chiuda la radio. Eccomi. Sento me stesso che rimbombo nella camera di Giuseppe vuota, con Giuseppe stramazzato. Sento solo l'eco mesta delle mie parole che rimbalzano nelle pareti nude della cella di Giuseppe. Giuseppe c'è, dia un segno di vita, se no sono costretto a segarla con ancora le palle. Non c'è. Pensate, un ascoltatore ha chiamato, poi ha abbandonato il telefono sul tavolo, la radio è accesa e la sua assenza ci dà segno tangibile della sua presenza. Bella questa scena, vero? Lì, ah, ecco, tornato Giuseppe. Pronto? Era andato un attimo in bagno. Ecco Giuseppe. Ah, no, ero in bagno. Bello, immaginavo, lo so, la prostata impone ritmi frenetici. Niente. Eccoci una qua. Una scena quasi allucinante per i giorni d'oggi, chiaramente. Certo. Però da film tipo Casotto. E dunque, nel sud-est varese si usava, verso la metà di luglio, in occasione di una festa patronale, il giorno successivo alla festa patronale, di buon mattino, verso le 3, diciamo, il carro con il cavallo, la pasta al forno, il coniglio con le patate al forno, si partiva con le coperte, si andava in un paesino qua sotto mare, diciamo tu. Non diciamo. Che anno era più o meno, mi scusi? 52, 53. Quindi lei ha fatto ancora un passo indietro, nemmeno motorizzati, bambino, col camion, bambino, col sì. Cavallo. Allora, no, che motorizzati, ma scherziamo. Col cavallo si facevano 20 km, ci si impiegava 3 ore, 3 ore e mezza, si arrivava lì, si adagiava il carretto a stanghe all'insù, mi segue, a stanghe all'insù, sì. Tipo carretto siciliano. E diventava la tenda, ci mettate la tenda. E diventava una tenda con le coperte per raccogliere le olive, mi segue. I teloni allora, delle olive. La prima scena rupestre che si poteva vedere, era quella come le scimmie che si spirucchiano con pezzi di tufo. Mi segue? Sì, vi toglievate i pidocchi, che facevate? A vicenda ci si grattava la schiena per togliere il tartaro mai tolto, perché non c'erano le docce. Il tartaro? C'eravate talmente con le croste, come gli anni... Vabbè. Sì, quel nero che si forma quando uno non si lava mai, non è mai successo. Non ne ho molta memoria, però può succedere. Non dico di... Quindi avete la schiena incrostata, vi toglievate le croste, sì, con il tufo. E i cavalli nell'acqua a fare il bagno, i cavalli, i muli. Beh, erano persone civili, i cavalli e i muli. Diciamo, i cavalli e i muli erano persone civili, si facevano il bagno, voi vi scrostavate con i pezzi di tufo. Lo facevano far fare i padroni il bagno, chiaramente. Certo. Ma purtroppo io ricordo, mi è rimasto impresso questa scena, e poi delle donne che si mettevano 6-7 paia di mutande, lo devo dire, per non far vedere qualche baffetto di troppo. A quel tempo la ciccia baffa era bella voluminosa, non era dei tempi di oggi. E purtroppo 5-6 paia di mutande, ma vedevi queste donne con queste mutande. mutandone. Cioè portare una valigia di mutande, ne mettere una sopra l'altra. Sì. E poi facciamo la danza delle sette mutande. E dove ci cambiavano? Già da casa partivano così. Partivano così, con queste sagome di 4-5. E c'è queste scene, e poi il famoso coniglio con le patate e i lampagioni dentro, che era una cosa spettacolare. Ma il bagno il bagno si faceva? Sì, il bagno si faceva. E con quale tipo di costume? I costumi dell'epoca. Si può immaginare quelle mutande da uomo, quegli slip da uomo, lenti, allentati, che sembravamo dei castrati. C'era la fuoriuscita testicolare. Perché non si vedeva nulla, chiaramente, mentre adesso c'era una sovrabbondanza scrotale che fuoriusciva dal bordo elastico del contenitore. Bravo, dottor Nicoletti, bravo. Ho speranza. Proprio, stiamo facendo un film già visto. E le donne invece toglievano tre o quattro di queste paglie di mutande sovrapposte, queste stratificazioni. Non se le toglievano, rimanevano lì. Lei può immaginare, chiaramente. No, non voglio immaginare quello che poteva esserci sotto la serie. No, non lo devi immaginare. Immagino un po' se qualcuno avesse il ciclo in quel modo. No, ma adesso non andiamo. Di che paese era esattamente? Quale? Da dove partivate, il punto di partenza? Cellammare. Da Cellammare, benissimo. Allora, da Cellammare, le donne con sette mutande e gli uomini con le croste andavano al mare col carretto e il cavallo. Ciao, Sergio. Cos'è successo? Niente, ho dovuto dirle che era finita. Non poteva mica durare per tutta la stagione. Tu mi capisci, io devo mantenere la mia media. Si devono mettere in testa che questo qui è il mio lavoro. Invece piangono, fanno i drammi, si disperano. In fondo, mica sono di pietra. Vedere soffrire la gente ogni volta mi fa star male, ecco. Ciao, Sergio. Dopotutto, ciao. Ciao, Enrico. La felicità. Sulla sabbia c'era lei, 800240024. Nicoletti, lei parla troppo e rovina la trasmissione. Starò zitto. Ecco, trasmissione, io sto zitto. Un minuto di silenzio, sto zitto. Allora, stiamo parlando dei ricordi delle vacanze. Emerge un tratto comune, che sono questi destini scrotati delle persone che vanno al mare con questi costumi imparaticci. Ancora non c'era l'idea delle miss marittime, quindi si facciano questi costumi fatti all'uncinetto. Cioè, no, infatti, anche in Casotto c'è la scena in cui Paolo Stoppa osserva Michele Placido, che appunto ha un costume che è un po' ristretto rispetto alle sue possibilità. Ma quello che abbiamo ascoltato era invece L'ombrellone di Lisi Ancora, che introduce per la prima volta la figura archetipica del gigolo romagnolo, ovvero in vestaglia di raso il bellissimo Jean Sorel. Attende l'arrivo di queste mogli che vengono parcheggiate dai mariti benestanti, probabilmente i mariti hanno i loro intrighi cittadini, le lasciano qui in vacanza e qui, nel tempo rovesciato dalla vacanza, dalla festa, le donne possono concedersi a questi gigolò. Comincia a entrare nell'immaginario collettivo questa figura del playboy romagnolo, che comunque addirittura qui si fa un rinforzo di zabaglioni vari e di sambuche mescolate per poter reggere il suo ruolo, come se fosse parte della Proloco. Ecco, quindi comincia la vacanza a avere l'idea, la villeggiatura dell'uscita dal tempo della regolarità. Le testimonianze dei primi ascoltatori è ancora una sorta di scampagnata in luoghi ameni in cui non c'era l'idea, c'era una promiscuità data dalla miseria, semplicemente si andava tutti assieme, si passava una giornata fuori, si mangiava, si beveva, ci si riparava dal sole, ma era poco più che una mietitura fatta a 20-30 km da casa. Invece qua, quando cominciamo a capire che il luogo delle vacanze è anche il luogo in cui la santificata e cementificata famiglia si divide temporaneamente, le città rimangono preda di mariti predatori e i luoghi di villeggiatura diventano tiepida consolazione anche di piaceri illegali da parte delle signore che vanno lì e trovano questa mercanzia disponibile. Simonetta, buongiorno. Buongiorno. Io sono una fedelissima perché ascolto solo Radio 24 in macchina e in casa. Benissimo. E sono già intervenuta qualche volta su Melog. Signor Nicoletti, la mia non è una testimonianza di miseria, perché i miei avevano una fabbrica già dall'Ottocento. Quindi lei era ricca di famiglia? Molto. E voi ricchi cosa facevate prima di andare in Patagonia? Come passavate? Noi avevamo la casa in Versiglia, andavamo in Versiglia e quindi niente. Però mi sembrava bello raccontare come i miei, siccome erano molto paternalisti, erano a Bracciolini, perché io sto nel Val d'Arno, fra Firenze, Siena ed Arezzo, nella zona del Val d'Arno, e sono nativi di lì e si chiamano Bracci. E, volevo dire una cosa, mio nonno aveva fatto le case per tutti i suoi operai, e poi il giorno di Ferragosto, siccome noi al mare andavamo a luglio e poi tornavamo ad agosto, insomma non era, però il giorno di Ferragosto era sacro santo, che tutti gli operai che non avevano assicurazione, che lavoravano anche il sabato, certo, non so se si ricorda lei che cosa, quando io ero bambina nel 52, avevo 8 anni, insomma, me lo ricordo benissimo, il nonno faceva mettere le panche sul camion, quello grande, perché ce n'era uno più piccolo e uno più grande. E caricava di operai. In America, mandavamo un vino in America, in Belgio avevamo gli uffici. Quindi caricava le panche sul camion tutto pulito, per bene, dagli operai contenti, felici. Poi la sedia, la poltrona per la nonna, la mia nonna che viveva nella foresta di Vallombrosa il 15 di agosto, col cappellino e i guanti. E la mettevano sulla poltrona la vecchia? La mettevano sulla poltrona la nonna vecchia, dentro il camion, e poi salivano tutti gli operai. Noi andavamo dietro, la nonna voleva stare lei lì, lei voleva stare con loro. E chissà perché. Anche il nonno, non lo so. E poi invece il mio babbo con noi, bambine, la mamma, andavamo dietro, che avevamo un'Ardea, può darsi. Certo, come no. Me lo ricordo. Lancia Ardea, la macchina. Nera, sì. E andavamo dietro e facevamo tutta la salita per arrivare a Vallombrosa. E una volta arrivati? Una volta arrivati si scendevano la nonna, la mettevano a sedere nel prato. Sotto un albero all'ombra. Tutto ombra, lei non conosce Vallombrosa? È meraviglioso. Lei dovrebbe, oltre che la Patagonia, vedere anche la foresta di Vallombrosa. Vedremo la foresta di Vallombrosa. È meravigliosa, signor Moretti, è veramente una delle più belle, con un monastero meraviglioso. E mettevano, la nonna stava metà del bucato bianco che aveva, e distendeva questi enormi lenzuoli, io me lo ricordo, tutti per terra. E poi scendevano i bicchieri, i piatti, e poi cesti con il pollo arrosto, ma fatto in casa giù, perché noi quello nella villa avevamo del, ecco, lo spante, quelli nostri dei contadini, perché avevamo 12 foderi anche. E poi le damigiane del vino le lasciavano col pellino buttato giù del camion, sul camion, con le cannucce, perché così mescevano il vino e scendeva meglio, capito? Certo. Poi? Ecco. E si beveva e si cantava tutti insieme. E alla fine? Fino alla sera. Come? E dopo la sera che succedeva? Si la ballava. Sera ricaricavano per bene. Ributtavano sulla vecchia sul camion e tornavano tutti. La vecchia. Vedeste, la mia nonna sembrava Grace Kelly. E poi si tornava. Però ecco, questa era la gioia di tutti, capito? Una volta all'anno, era... però, se no... Sì. Poi il nonno che c'entra, dava da bere, portava tutti i biscotti. I biscotti fatti in casa, nei cestoni, meravigliosi. Vabbè, è stato una fantastica squarcio di vita. E cosa rimane oggi di tutti i suoi poteri, dei suoi averi? È ancora sono ricco. Falliti nel 1960. Come succedeva sempre in quei tempi, non erano adeguati a vivere l'epoca contemporanea, no, giustamente. Assolutamente. Queste sono immagini fantastiche. Io di epoche. Mi porto dietro tutto il bon ton delle mie suorine verde, del mio collegio, delle cose, però mi rimbocco le maniche e faccio da Marta e da Maddalena. Cioè, quindi fare pulizie. Certo, mi sono rifatta una bella casa, perché grazie a questa ambizione, a questa lotta, mi sono rifatta una bella casa in campagna, sempre nel comune di Terranova. E però lei ancora i suoi ricordi, dei quali ancora si alimenta, e questa la condurrà con mestizia, ma con una certa nostalgia, fino all'estrema dimora. Arrivederci, Luigi. Ciao, dottor Nicoletti, buongiorno. Ciao. La mia testimonianza, nel mio archivio logicamente mi ricordo perfettamente che chi andava col carretto era un lusso, io invece ci andavo con mio padre seduto sul telaio della bicicletta, se invece andavo con mia madre, che andavamo insieme, sulla tavola che collegava dal manubrio sotto la sella. Ah, quindi sempre in canna la sedevano? Sì, perché il carretto che ce l'aveva, la strada era completamente di campagna, era una passeggiata ecologica perché erano 11 km di strada di campagna, però era anche una bella giornata quando si andava in campagna. Mi ricordo perfettamente che le donne andavano con le mutande lunghe, all'altezza del ginocchio c'era il laccetto. E poi di sopra. Ma che anno era? Scusa, quelle mutande sono state dismesse nel 1920 più o meno. No, io me le ricordo perfettamente che andavano di sopra avevano la camicia di notte. Facevano il bagno con la camicia di notte. E che anno era? Ma 62, 63. Quindi nel 62 in Italia ancora c'erano dei posti dove le donne andavano a fare il bagno con la camicia di notte. Sì, dalle mie parti sì. Poi gli uomini mi ricordo che si toglievano la maglia fatta di lana di pecora, la maglia fatta in casa. Nel periodo estivo andavano ancora con quella maglia. Sì. E gli uomini pure avevano la mutanda lunga che arrivava a ridosso del ginocchio e facevano il bagno in quelle condizioni. Però mi ricordo perfettamente che si andava con la bicicletta seduta su quel telaio a fare 11 km con la strada di campagna. Il povero bambino arrivava, poverino, che era già castrato naturalmente. Certo, però faccio dire che era una bella giornata. Era una bella esperienza. E quando era festa si mangiava la parmigiana, quando non era festa invece si mangiava la panata. Legumi immischiati con la verdura fiorita dal giardino che apparteneva alla casa. Vieni fuori, Foschina! Vieni tesoro mio! Attento, la bagno tutta! Non importa niente! Le sdraie! Quel beota prima sì, poi no, poi ce n'è una sola, invece ci sdraiamo qui sulla sabbia. No, mi si appiccica tutto! C'è un pallone! Giochiamo! Tira, Foschina cara, tira! Provercelli, 1929. Alto, eh? Ma è di quelli pesanti, è da palestra. Bello alto. Porcello! Un'inedita parte per Amedeo Nazzari, quella di fare il cialtrone in riva al mare. Sì, scherza con la propria icona di bellezza virile, questo è un film del 63, Frenesia dell'estate di Zampa, anticipa la gag fantoziana ripetuta all'infinito della palla medica presa di testa, so che sprofonderà Fantozzi nell'arena. Qui Nazzari rimane stentoreamente in piedi, è un uomo ferito ad Ambaradam, la ferita di guerra che gli impedisce di correre più di tanto, a questa maglietta scollata a V da gigolò d'Ersiliano. Insomma, si cominciano a introdurre anche questa attività frenetica sportiva che poi accomunerà tante estati di tutti quanti. Ci si lancia in sport in balia di infarti imminenti, si lancia in sport estremi, accaniti per ore e ore sotto il solleone, improvvisamente, senza aver nessun tipo di preparazione. Poi chi è che porta le palle mediche che sono attrezzi da ambulatorio, da palestra specializzata in riva al mare? Sì, funzione della gag proprio. Ah, funzione della gag, sì, perché non ci sarebbe un senso. Grazie, buongiorno. Grazie. Sì, buongiorno, ecco. Sia Nicoletti. Buongiorno. Attendo la sua testimonianza con ansia. Ah, guardi, mi ha fatto tanto piacere sentire quella signora che parlava di Vallombrosa, perché io, anche se non si sente, sono toscana e mia mamma mi portava al sabato o alla domenica a fare delle gite. Siamo andati a Vallombrosa ed è vero, la foresta è bellissima. Poi andavamo sulle Apuane verso Campocatino, ci sono delle cave dove risuonava l'eco degli avvisi quando dovevano far saltare le mine, il lago di Vagli che allora non era ancora maltrattato come adesso. Ma che facevate? Porti episodi personali, se no sembra la guida turistica. Cosa facevamo? Facevamo, per esempio, mi ricordo una volta che, anche se io amo tantissimo gli animali, ma lì ero piccina, non potevo fare nulla, hanno portato un coniglio, hanno fatto un falò con le pietre, delimitato da pietre, eravamo verso Campocatino sulle Apuane, hanno arrostito quel coniglio che peraltro era bellissimo, buonissimo, ma io allora non ero in grado di capire che adesso però forse non l'avrei mangiato più. No, mi spero, questa me la deve spiegare, scusi, la funzione del coniglio è essere mangiato. Ho capito, lei ha perfettamente ragione. Qual è il problema? Il problema è che diventando anziani, io ho 65 anni, sì. Si capisce un valore della vita un po' diverso. Io ho sempre amato molto gli animali, però facevo un distinguo fra gli animali per nutrirci e gli animali per amare. Giustamente. Ma male, da compagnia. Adesso invece mi rimorde un po' la coscienza, anche quei poveri agnellini, io non ho più coraggio e di tieni un maialino, e tieni un maialino sotto il letto come se fosse un... No, non tengo un maialino, però ho 5 gatti e un cagnolino che mi è morto da poco e siamo disperati perché è morto il cagnolino. E i gatti tutto il giorno piangono? No, i gatti, una in particolare sente la mancanza del cane. Sì, li ha tinti tutti di nero in segno di lutto? No, non ho listato a lutto i miei animali. È già la vita delle persone, compresa. Comunque non mangia più carne, lei non mangia più carne animale. Questa no, la... no, no, la mangio, però compro delle fettine di maiale che non vedo, delle fettine di mucca che non vedo. Vabbè, ma scusi, dietro quella fettina c'è un bel codino arricciolato, delle belle orecchiettine, degli animalini che fanno. È una forma di ipocrisia che ormai siamo costretti a integrare. Però è così, è una forma di ipocrisia. Che maiale a fettine, dietro c'è un maiale che palpita e rumina. C'è un'anima. Cosa vuoi che faccia? Non posso mica morire, è come, te, come me tanti altri. Fa come me che sono vegano, mangio soltanto verdure. Infatti. Io ho 65 anni, se non posso mangiare soltanto verdura, perché altrimenti, siccome ho già qualche acciacco, purtroppo Perché le fa pena il coniglietto carino, pelosino, e invece il povero maialino, soltanto che sta in mezzo al suo strano, può essere tagliato a fette, mica è giusto. Vabbè, signor Nicoletti, guardi, purtroppo lei lo sa, meglio di me, credo, perché avrà anche più esperienza. Io sono stata una mamma, adesso sono una nonna, sto tentando di portare mia nipote a fare le stesse scampagnate che facevo io. Ho portato i miei figli a Gran Paradiso, al Monviso, alle cascate del Toce. Vabbè, insomma, signora, fermiamoci. È stata una vita meravigliosa e fantastica, e grazie alla sua testimonianza oggi i teneri coniglietti potranno riprodursi felicemente senza aver paura di essere messi allo spiedo. Emanuele. Buongiorno, dottor Nicoletti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, niente, io quando posso la seguo sempre, perché complimenti per la trasmissione. Sì, andiamo al punto. Niente, stamattina mi ha stimolato perché mi ha portato a ricordare molte cose di quando ero piccolo. Un episodio. Soprattutto quando si andava al mare, che i contadini con i loro carri e i cavalli. In pratica noi stiamo alla zona di Taranto, i due mari. Il Mar Piccolo c'ha... c'è una sorgente che a 400-500 metri dal Mar Piccolo, che c'è un fiumiciattolo e c'è all'imboccatura del mare una vasca grande dove si raccoglie tuttora, perché esiste ancora, tutta questa acqua sorgiva che poi si... E beh, voi che facevate su questa acqua sorgiva? Perché devo chiudere. Questi contadini con i loro cavalli, con la scusa di che dovevano fare il bagno ai cavalli, si lavavano anche loro, però nell'acqua sorgiva, perché si diceva che faceva bene ai cavalli. Allora, fermiamoci solo un secondo. La sigla, anzi, ci fermiamo per sempre. Sansonna, vedi, però abbiamo dato un'idea che io non immaginavo, di arcaismo ancora vivente, non lo trovi? L'impatto con la società, della società rurale, col mare, che appunto porta i suoi cavalli, porta tutto il corredo del suo mondo, lo porta vicino alle acque marine, quindi c'è questa collisione, questa è tipica di quel periodo. Ci sentiamo domani.